Santiago Ozzo Radio Gimbe. A me bollone. Sentando. Aspetta. Mi sta dando 14 watt. Ma stazionaria, l'altro giorno con la pioggia avevo stazionario, ho sentito. Sì, non è fatta quella, ho messo l'altra, dove c'era prima, a due ci deve stazionare qua. Aspetta. A due. Vabbè, due, basta fare passaggi brevi, non succede niente. Ho detto l'altro giorno che c'era pioggia, ti ho sentito che ce l'avevi a tre, confermi? E si conferma. Beh, tre cominciano a essere pericolosette per il finale. Però se fai passaggi brevi, solo che quell'antenna, ma tu hai messo la Thunder, la bazooka. Ma non sta piena d'acqua, era. E lì entra l'acqua, boh, è talmente semplice, un tubo col tappo in punta, da dove entra l'acqua? Boh. E tu falla asciugare bene lui, e gli isoli, la zona del tappo, tutte le zone dove può entrare le isoli, anche il PL, dove abiti il PL. Ma non è piatto blu, compro la boomerang, quella grande. Certo, se hai la possibilità di piazzarla, piazzala. Se poi è in alto, non ne parliamo. Vedi, bombolo è un po' penalizzato, è la verità. C'è la boomerang grande, però, boh, arriva molto basso, soprattutto a Pro Torres, bassissimo, quasi zero anzi. La boomerang è omnidirezionale. In realtà sì, però c'ha il lobo di irradiazione leggermente, ma è una cosa infinitesimale, deformata verso il radiale. Però se tu la metti sul tetto dove c'hai tutto libero a 360 gradi, non si sente quasi la direzionalità, capito? Il radiatore è sempre verticale. Vabbè, sul tetto sarà impossibile. Dici, non la fanno mettere? No, la voglio mettere io. Sarebbe un bijou mi sul tetto, veramente un bijou. Vedi tu, Luca, se c'è la possibilità io ne avrei approfittato. Tanto ricordati, è un'antenna talmente piccola, cioè talmente leggera, che non dà problemi, la puoi levare quando vuoi. È così, dai. Va bene, lumi. Sentito fischiare, stavo stampando roba, plastificando roba, documentazione, dobbiamo fare un casino, per carità, notai, poste. Meglio che non te ne dica. Sentiamo più tardi, è una discreta giornata oggi, dai, non troppo calda, non troppo fredda. Ciao Lu, buona serata, ciao. E anche a te, ciao. E ciucu ciu, e ciucu ciu. Gianni, tu sei. Stavo spennellando polvere ovunque, è inutile mettere telo per la polvere, per i baraccocchi, la polvere passa anche sotto, non so, o attraverso, è una cosa, intanto vuole non pulire più niente qua. E passa anche quando chiudi il buco, io ci ho messo un po' più, lo chiudo e passa lo stesso. La polvere si utilizza per fare, io va, sono crepato, sto tornando, stavo facendo di queste cose. Stavo andato per fare un'integrazione 730, un sacco di roba ho fatto, ma non mi sono riposato nulla da comprare. E adesso mi sono anche in farmacia, perché poi lo siamo preso l'ultimo, adesso l'utilizzare va tra 12 apre per le mamma di ordinare per domani. E qua nei giorni a venire avremo un bel po' da fare, lo stesso. Poste, vabbè, fesserie, le poste, quello è il meno, poi dal commercialista e poi il grosso, roba di notai, documentazione da fare, per carità di Dio. Sento per un parente in Puglia che è deceduto e c'è roba da raffare, diciamo. Ma i parenti sono tanti, quindi la roba che rimane poi è poca pro capite, capito? Tutti lo sa, solo che essendo distante è tutto procure, controprocure, documentazione, è una rottura di balle già. Poi che tu rinunci o che tu c'è un rientro, perché vabbè, aspetta che abbasso, che tu rinunci o che accetti queste cose qua, devi comunque sempre fare trafile da notai, documentazione. È una rottura di balle. Quando c'hai i parenti lontani, poi parenti, io non manco riconosco di faccia. Avevo 7 anni quando siamo andati da loro, giù in Terronia. E anche io, i miei parenti, quindi primo grado, e parlo di miei figli, cugini, l'ultima volta posso fare 2 anni quando sono andato. E molti non ci sono più, anche passato un'infinità di tempo, era il 78, il 78 era quando eravamo andati, ero piccolo, non è che mi ricordi molto. Adesso ci sono i figli e i nipoti più che altro dei vecchi parenti di allora. Qualcuno ancora sopravvive, ma un po' traballante, un po'. L'età va bene. E poi che te devo dire? Boh, niente. Facciamo a parte tua madre i parenti. Sì, Taranto e dintorni e non solo. Da parte di mio padre sono tutti di Sassari, così, i sopravvissuti, i pochi sopravvissuti. Quelli non li contiamo, non esistono nemmeno. Ho cominciato a fare i giri, documentazione, e ci ho staccato un pezzo, ho detto vabbè, la macchina la lascio ferma, tanto vicino a casa a fare tutto il pubblico, va bene, non ho fatto più, però una bella salita, è fatta più, si sente. Ehi, qua in Viale Trento è tutto chiuso, anche i pedoni, e non ti fanno passare proprio, è tutto chiuso a lucchetto, Mentre prima c'era solo la plastica, il cordone in plastica limite scavalcavi e passavi. E adesso il comune non vuole responsabilità, capito? Mi sa che crolli tutto quando ci passa qualcuno e poi deve pagare. Tutto chiuso lucchetto, ci sono gli operai solo, anche mezzi pesanti, camion, furgoni, macchine, eccetera. Tanto loro hanno un'assicurazione se per i rischi sul lavoro, capito? Se che ci cade un cittadino comune deve pagare il comune invece. Vabbè certo, ma il Viale Trento è stato sempre così, si svuota, so che poi in forma delle fatte avvicinate. Poi lo sa che altezza sia l'apertura delle che è sprofondata, però l'altra volta mi pare che la prima di vedi, puoi arrivare fino alla farmacia, fino al bar, però dopo il bar c'è proprio la off limits. Questa è come la storia di Platamona, di quel crollo. Lì hanno rattoppato, vabbè, cosa hanno fatto? Hanno rattoppato in previsione di un prossimo crollo, che ne sa, speriamo di no. Lì andava, come detto, andava tutto buttato giù e rifatto ex novo, perché rattoppare non risolve il problema. Solo che lì il terrapieno, quella è una cosa immane, capito? Non è il coso della rotonda lì. E come fai di rattoppare? Se no ci mettono anni qua, se dove c'è rifare tutto il terrapieno, lì non lo so se puoi rattoppare come fanno qua da noi. Non lo so. Con l'acqua poi si svuota, si possono formare di nuovo smottamenti, è una cosa delicata lì, capite? Bene. Diciamo che i furti li hanno messi, non su quel muretto, per un po'. Se non si svuota di nuovo sotto, ma quello lì non è colpa dell'uomo, è colpa del mare che svuota, ma svuotare tutto sotto. È andata bene, dai, meno male che c'erano quelli vecchi che hanno dato una mano a quei ragazzi, no, sarebbero tutti sotto le pietre. Sì, però... però poveretto, quello intanto che ci è passato, quello della foto della nuova, era impressionante. Vedi qui comparire la schiena e qui è tutto sotto le pietre, la schiena poi ferita dai massi. Quello non so pure se si è rimesso, se l'hanno pagato, secondo me non hanno pagato niente, ancora. Quello è il comune di Sossoli, non c'è fare una sassa, perché stanno come il comune di Sossoli. Sicuro che sia comune di Sorso, perché qua ogni volta c'è chi li ha 100 persone, 100 persone ti dicono cose diverse. Qualcuno diceva rotonda, proprio quello lì, comune di Sassa, e tutto ciò che c'è a destra Sorso. Quindi è Sorso, confermi, ma da fonti sicure. Allora, io so questa questione, che praticamente una volta hanno messo i vigili di Sassa, hanno messo la multa, tutte le macchine che c'erano, eccetera, eccetera. I vigili di Sorso hanno fatto praticamente causa perché dice che apparterebbe a loro la rotonda, li dovevano risarcire tutte le multe che avevano fatto. Non ci posso credere, sai cosa mi ricorda? Quando c'è la malavita, no, che possiede le zone della città, no? Quando sconfinano a chiedere il pizzo in zone che non gli competono, stessa cosa lì, capito? Sì, si fanno una forca vicenda tra comuni, a chi fa più multa, a chi si ruba più il territorio, per carità, mamma mia. E poi io di sicuro non so nulla, però c'è chi dice che la rotonda appartenga a Sorso, la rotonda, dice che appartengono tutti a Sorso. D'altra parte mi pare, chissà, sarebbe un po' caro. Io non mi sono mai interessato perché, cioè, molte poi non ne ho mai preso la rotonda, perché non saprei dire se che comune è. No, una volta me l'avevano messa, se dove, tra il villaggio grigio e il villaggio rosso, no? Quando era aperto, tanti anni fa, quando era aperto. Siccome i parcheggi, diciamo, lato destro erano pieni, io l'ho messo al lato sinistro, praticamente al centro di quella rotatoria, dove c'è un marciapiede, però il marciapiede era talmente sporco, era pieno di sabbia, pieno di sporcizia, di vetri di bottiglie. Ho detto, beh, non faranno storie se metto la macchina qui, perché tanto i pedoni passavano in strada, cioè era impraticabile il marciapiede per i pedoni. Ho detto, ci metto la macchina, non succederà nulla. Invece no, si sono premurati i vigili urbani di mettere la condizione per sosta sul marciapiede. Io ero in acqua, ero lontano, non potevo intervenire né dire nulla né spostarla, però credo fosse comune il Sorso quello, però quello dico, quello nego già, sono passati troppi anni. No, ma c'era da dire, ma scusate, vedete che il marciapiede è un cimiciaio, che pedoni non ci passano perché è impraticabile per i pedoni, infatti passavano in strada. Ci vuole, detto, tutto il coraggio vostro a mettere la contravvenzione. Comunque vabbè, colpa mia, era comunque punibile a livello teorico, infatti non perdono occasione, non perdono occasione, va bene, non fa niente. L'unica multa in vita mia che ho mai preso è, a dire il vero, sai, unica, dal 90 a oggi, multa di vietro di sosta proprio per aver messo la macchina in mezzo alla mondezza, che il comune doveva tenerlo bene il marciapiede, capito? Va bene, pazienza, che te lo dì, che te lo dì. Era la piena di Sorso, era il comune di Sorso. Sì, allora si facevano quei spettacoli, c'era, come si chiama, facevano l'asta. Io all'asta ho partecipato un po' di volte, ho preso anche roba cinese, roba, però non cinese di Lisa Lampati, roba, cosa si può dire, fatta in legno, tipo quei mobili di porta giudizi, eccetera, eccetera, per compagni, quelle cose. Aspetta un attimino che mi stavo incasinando qua con là. No, ti volevo dire, tu già hai capito dove ero andato io mi pare sia tra il villaggio grigio e rosso, e una volta c'era solo un bar sulla spiaggia, quello di sinistra, poi con gli anni ne hanno costruito uno a destra, e praticamente dal parcheggio al mare ci sono 30 metri, cioè c'è il mare di fronte proprio, davanti alla macchina. Ho capito. No, era comunque con la giornata di tutta perché anche il negozio che abbiamo noi a Frattamona è come un risorso che ci dà la montagna, non è quello che è un po' di distanza, è il risorso che ci dà. Che però sai già, mi viene il dubbio, ma se è di Sorso, io non ricordo mai di essere andato a Sorso a pagare multe. Non la devi pagare nel comune di residenza, in teoria la multa. Poi la CIPU non l'abbiamo ancora pagato, forse ho aspettato la notifica. Non me ne ricordo, sono passati troppi anni già. In compenso, va bene, negli ultimi anni hanno fatto quel tavolaccio, cioè hanno chiuso la rotatoria lì alle macchine, hanno messo quel tavolaccio per passeggiare e la macchina la devi lasciare prima della rotatoria. Poi il quinto pettine non ne parliamo, quella è una cosa vergognosa, roba da malattia di mente. Hanno fatto gli spazi per le pecore, bello, bello, tutti i parcheggi hanno soppresso. Ci sono, mi pare, 3 o 4 parcheggi, compreso quello per invalidi. Sì, sì, l'ho visto, io ci frequentavo molto al quinto pettine. Mi piaceva anche per i miei figli perché c'era l'acqua alla bassa, arrivava via di scudi, cantando, potevi fare tante cose, a volte ho portato la cara da pesca, a piedi, tutti andavo sugli scudi e pescavo dagli scudi. E stavo bene, mi piaceva perché pescavo un po' bene. E adesso la lo facevo pescare sul barco, andavo dietro con gli scudi, ho preso un po' di roba di sedie, sala, di tutti i tipi, però andavo oltre, capito, dove c'è l'acqua buona. Sì, mi ricordo che agli scogli arrivi a piedi là, è abbastanza bassa l'acqua, arrivi a piedi agli scogli senza problemi, è molto carino. Io andavo un po' sulla destra, dove c'è praticamente c'è una parte di spiaggia che si protende leggermente verso gli scogli, capito? Però stare anche in mezzo alla calca, no? Alla ressa, lì, proprio dove parcheggi. Andavo a destra, saranno stati 100 metri a destra, era più discreto, meno gente, non c'avevi gente gomito a gomito, capito? Però io non so il perché di questa riduzione dei parcheggi. Poi queste canne messe per fare come dei recinti di pecore, vabbè che comune di Sorso, vabbè, basta solo la parola, Sorso, Pillellera. Cosa stavo dicendo? Anche andavo sulla destra, vacco, verso gli scudi, poco prima di quella curva di cena, no? E mi trovavo i vermi per pescare, infatti i vermi per pescare ce n'erano anche un bel e in più non compravo nulla, io vermi per pescare prendevo da lì e pescavo con più vermi. E poi a volte mi prendevo da lì e andavo in un altro posto a pescare, e ero invece di filata con quei vermi, mangiavano un bel. C'erano le pedine praticamente è anche un riva, le trovavo, mi facevo una bella spaghettata, prendevo una bottiglia di quelle dell'acqua e le riempivo, la riempivo tutta quanta le pedine, quando arrivavo a casa le mettevo a bagno con acqua e sale per togliere la sabbia e poi facevo la pasta di giorno, ma non era le telline, ma quelle sotto sabbia che io chiamo, hanno un altro nome, porca miseria, non mi viene, non vongole, arselle, quelle lì. Non sono arselle, sono telline, lo puoi chiamare come lui, ma sono telline, le arselle sono diverse, non sono così. Non ce l'ho presenti, ma a forma allungata o più rotonde, ma non sono le pastelle, no? No, sono telline, sono come la forma delle pastelle, cosa ti posso dire? Sono della stessa forma, ma stanno sotto la sabbia, capito? Tu basta che, e a volte prendendo quelle che la mano, tanto il pesco di grande di sabbia che si piccano, bello cirà. E quelli per pescare, a beccare i granchietti. Ma cioè la conchiglia ha la forma tipo vongola, vabbè. Sì, quelle le ho viste meno, ma molto arselle vedevo. Poi parte che a me non piacciono tanto né vongole né arcelle, cioè o cozze con la pasta o niente, i tegazzu, vongole, tellini. Quando sono fresche sono buone, ma poi anche a me piacciono più le cozze, bella bruna. Io ci puoi mettere la roba dura, ma le cozze sono quelle lì da sapore. Però non è buona fatta la pasta con un sugo di grano, ma le cozze spaccature adesso le devo essere. Sì, se è roba fresca è di una bontà eccellente. Un bel sole, caspita, quando sono uscito verso l'una e mezza, a un certo punto si stava come nuvolando, adesso invece c'è più sole. Ho comprato due cosette, preso un caffè e così, dai. E poi adesso vedo cosa, come impiegare la serata. Ma sai che c'è un primato che sono andato al policlinico a fare le latte. Sono stato il primo a fare le latte con i macchinari nuovi che hanno messo, dappertutto. Sono stato 3 ore solo per la risposta, ma 3 ore, è stato dalle 8 fino alle 11. Mamma mia, per delle radiografie, 3 ore. Cacchio di Buddha. Adesso vediamo cosa ne esce, pure queste vaccinazioni, vabbè mamma si vaccina perché è grande, però io questi vaccini li temo, sto cominciando a temerli, no? E vabbè, tanto di qualcosa bisogna morire già. Beh, ci vuole, ma c'è quello che dice, allora se vuoi, per voler morire buttati sotto la macchina, se trova a casa ci sono dei buchi, se invece c'è di evitarla la macchina, sappilo. No, no, qualcosa di più eclatante, porca miseria. Marco, anche io sono sul più malato, questi vaccini fanno bene per una cosa e poi fanno male per l'altra. Avevamo fatto vedere un documentario una volta di bambini vaccinati che camminavano e tutto e tornava a casa e stanno alzando il tiro poi con questo Covid, mamma mia, piano piano. Quello Conte ha già rinnovato la cosa per fino a gennaio, ma no, sai cosa temo io? Io ricordo sempre quel fatto di quella vaccinazione di massa di anziani, soprattutto zona Brescia, Bergamo, lì, vaccino antinfluenzale e anche antimeningococco avevano fatto lì, perché c'era stato un piccolo focolaio, fonti ufficiali e poi chi lo sa. E proprio lì c'è stata una moria terrificante anche di anziani. Cioè non vorrei che questi vaccini, adesso ti faccio un coso terra a terra, un anziano si fa un vaccino, no? L'organismo reagisce al vaccino magari con febbre, con cosa, no? Non vorrei poi che in concomitanza arrivasse per esempio Covid, uno non volendo se lo prende e che ne so, indebolito dal vaccino il fisico non reagisca o reagisca male, capito? E già quando sei anziano ti colpi, ne hai molto meno, quindi è un bel problema. Sembrava quasi un gioco all'inizio, poi lui ha fatto strati, chissà che ci trovi qualche cosa per farlo, per proprio per debellarlo di tutto. Magari c'è l'interesse a non debellarlo del tutto, eh? Così alcuni governi, alcune cose si autoconfermano, si auto... Adesso hanno parlato anche di esercito a controllare le strade o a fare posti di controllo. Stanno andando per gradi, piano piano, piano piano. Boh, che roba strana. Imbigo tutto. Cioè il virus, vabbè, però. Mi piace bello attrezzato. No, vabbè, ma non serve quella roba a contare. che o vivi, che sei col, come si chiama? Con lo scafandro. Non, quello è per cose più gravi più. Vabbè, molti sono pezzi da collezione, poi in realtà già roba ex ordinanza, capito, roba che per esempio non usa più l'esercito inglese, l'esercito belga, anche la Svezia o Finlandia, non mi ricordo adesso, è tutta roba nuova di magazzino, roba che non è entrata neanche in servizio, alcuni pezzi, carini. Una cosa, sempre il toglio di essere un prezzo per maschile, no? Questa è il giorno nostro per maschile, con anche questo di magari. Sì, ma infatti non. Cioè, o segui un protocollo NBC, cosa non fattibile per una persona normale. No, non è fattibile. Sì, pensa se fosse roba letale, virus, anche con 90% di mortalità, roba terribile, non come questo, questo. Anche influenze stagionali hanno fatto un bel di vittime, come tutti i virus c'è a chi non fa nulla, senza sintomi anche, e c'è chi lo porta alla tomba e reagisce in modo diverso all'organismo di ogni uomo, chi è più predisposto a certe malattie, a certi virus. Marco, e poi tu non so. Ok, da, con calma. Il telefoneggio, ma cosa facendo? Mamma sta mettendo casino, mi. Ogni tanto mi trovo i cavi tranciati. I cavi del baracchino. Stava strappando. No, tranciati no, ogni tanto spostato. Oggi c'è un po' di propagazione già, ho sentito stazioni spagnole, o in FM o in AM, roba in banda laterale, più che altro sono, come si chiamano, portoghesi, quelli che ci avranno 8 kW minimo, chiami non sento. Cazzo, c'è Mario, che è il Portogallo. Caluto, o come si chiama, e loro modulano in LSB, mi facendo danno, in LSB modulano, sul 34, roba del genere. Io acceso un po' presto, verso le 3, poi lo lascio acceso e c'era un po' più propagazione, adesso forse un po' meno, però è roba estera, cioè non è roba italiana, e lì la lingua ha sempre una rottura di palle. Marco, ho buscato il caso da cambiare e com'è il classico, quello più grosso di cavo? Perché anche quel mica, quel cavo fine, quello che si rompe, mi la guai. No, è quello grosso, quello del DM1000. Quello del DM1000, speriamo che non sia interrotto, se lo controllo. Ce l'ho pronto, la chat, lo spilotto, tutto qua, non faccio che a me che rifiutire il microfono. Poi se lo spilotto come cambiato, lo guardiamo. Lì, oddio, se tu guardi la foto del mic interna, non è saldato, i cavi che arrivano dal cordone entrano in questa specie di spinotto, di presa, ci hanno dei cosini tondi che si innestano, vabbè, non te lo so spiegare che connettore è, lo devi vedere tu. Comunque si può anche saldare, non è quello il problema, però per essere una statica a me pare una scrunzata. Ma infatti, ma io la statica l'ho avuto, diamo loro che mi dice, ma c'è tutti i bassi non ne hai, c'è tutto qua, era erano belli gli astratti che di una volta, ma quelli anni 60, 70, quelli erano astratti con le palle. Questi di adesso è roba commerciale, Rod Devil, anche questo D104 che ho io, di cui non ricordo bene la sigla. Tutta roba età commerciale, quelli belli non li trovi più. È come la storia degli Shure degli anni 70, inizio 80, come quell'altro solito, dai, il Turner. Non li trovi più quelle finestre, adesso trovi ZG, oppure trovi questi Lafayette, Bayer, quello che ha Gianfranco. E su suoi apparecchi peraltro va anche abbastanza bene. La V508 a lui, tu avevi quello più grosso, la V908 mi pare, che c'aveva un carasso di controlli, di impostazioni. E io c'avevo l'equalizzatore, c'avevo le frequenze, come su bassi, altro, tutto qua. Lo potete regolare come volevi, ma in casa. Eia, solo che mi ricordo che dov'è che non riuscivi a farlo andare sul K? Non lo ricordo, non c'era. Il microfono mi ha un po' di non mi piace. Era troppo grande come base, per farcelo stare ho dovuto spostare un po' di roba, aveva una base troppo grande, poi come usciva non mi dava molta soddisfazione. E anch'io mi ricordo che era come cupo, non era cristallina la modulazione, già. Gira gira va meglio un MB più 4, e molto meglio, sia che lo metta sul K o su Superstar, su Galaxy, Saturn, tutti quegli apparecchi che già escono bene lì, che hanno un modulatore buono. Ok. MB più 4 non è un brutto microfono, con la voce tua perfettamente, ti dà un po' di amplificazione, ti fa uscire con la voce tua proprio chiara chiara. Io sono curioso di provare l'MB più 4 e l'MB più 5 sullo stesso apparecchio, cioè azzeccare i toni dell'MB più 5 come il più 4 e poi vedere quale alla fine esce meglio. Perché molti hanno riscontrato che certe volte va meglio l'MB più 4, non c'è nulla, è regolare, la modulazione è bella, bilanciata, non hai né troppi alti né troppi bassi. Col più 5 ogni tanto qualcuno ti dice alza un po' il tono oppure abbassalo di più, poi dipende dall'apparecchio che riceve. Dall'apparecchio che riceve dipende molto. Oh, yeah, mi sto stropicciando l'occhio al sangue. E comunque io da tavolo, poi lo spazio qua è quello che è, non, più di tanto non mi piacciono da tavolo e nemmeno amplificati, perché alla fine sto usando sempre e solo questi qua, questi originali delle radio, delle radio. Questo è bello, che cos'è questo qua? Sì, sempre il 3009 con quel microfono di serie che è siglato Star, quello di serie, quello Star, c'è il cordone rigido, magari quello è un po' seccante, molto rigido, mentre il Lafayette BMC507 ha il cordone bello morbido, sempre buono però con la guaina buona, di spessore come questo qui, solo che alla fine... Cioè, bisognerebbe tenerle da parte i microfoni buoni, questi poi Lafayette, però non... sempre a spendere, costa sui 13 euro il Lafayette DMC507, è anche, secondo me è anche superiore al DMC, quello della Midland, che la capsula è più chiusa, c'è un guscio di plastica, ha toni più bassi, poi dipende, uno può preferire toni più bassi oppure modulazione più cristallina, più neutra, voglio dire, neutra. Poi ci aggiunge la spedizione, cioè, vabbè, comunque, vedremo se ne vale la pena anche. Io... quelli che erano lui già da sotto di voi, io ho tutti già un bar, mi sono capitato, poi vabbè, i microfoni contemporanei molti vantano questo KPO, non so se sia una marca tedesca o polacca, KPO, c'è un preamplificato da palmo tipo le ZGM93, ha il cursore sempre orizzontale, certo la forma non è un granché, però dicono che sia molto buono, bilanciato come timbrica, capito? KPO 520 o roba del genere, dove vedete su internet. Solo che lo vendono sempre o dalla Germania o dalla Polonia. In Italia non li trovi, a meno che non li becchi al volo. Una volta li hanno portati in Italia, non so se fosse Tecnocomunicazione o chi ce l'aveva, io per tircheria e anche perché non ne uso amplificati, non ho voluto prendere, mi era passata l'idea anche, non ho voluto prendere e in Italia non l'ho più visto. Devi ordinare da fuori, quindi ti costa di più la spedizione anche. Vabbè. Io anche per tircheria ho detto, ma tanto io amplificato non ne uso, è inutile che mi leggo un pareggio. Sai dove lo mettono molto quel microfono? Sugli apparecchi tipo CRT 6009, no, Alias 5005, eccetera, eccetera. Su quegli apparecchi lì. Vabbè, la forma è bruttina, mi... Vabbè, d'altronde lo ZG c'ha queste scritte gialle, questo pulsante giallo, il cursore giallo, anche quello è giocattoloso, ed aspetta. Mio no, il mio è originale. Ehi, tu l'hai pitturato, l'hai. Lo credo bene, non mi dia via questa cosa, tipo giocato, sembra non giocattoli, va bene. No, adesso è più serioso. L'ho fatta di un grigio... grigio topo muschiato, e l'ho visto, mi ricordo la foto, l'avevo poi guardata, ma da tanto tempo fa, era prima che aggiustassi il cellulare lì, poi non ho capito cosa hanno cambiato, c'è una sigla, sostituito componente, c'è una sigla lunga, ma non ho capito se il display o se era qualche controller, qualche microchip, boh. Vabbè, tanto poi la batteria dopo 2 anni è da buttare e ti costa un bel, tanto mi dice la batteria si crepa appena finisce la garanzia, dopo 2 anni e un giorno la batteria comincia a degradarsi rapidamente, sono fatti apposta, poi è tutto sigillato, non è il coperchietto che puoi aprire, lo possono fare in fabbrica oppure lo dai a qualche pakistano che lo sa fare, anche Luca lo sa fare, però se sbagli qualcosa si rompe tutto. Poi quello che io è in vetro anche dietro, vetro davanti e vetro dietro, se ti ingaggi si spacca tutto. Ma quando mai uno fa un cosa, uno smartphone col vetro dietro? Ed era l'anno 2018, avevano fatto ne hanno fatto quasi tutte le marche, lo facevano con lo retro in vetro perché era figo, capito? Però passavano le 2 dittate e diventava uno schifo, diventava. E che telefono hai preso, ma te l'hanno fatto in garanzia? Sì, fino a dicembre in garanzia. E sta per scadere. Siamo ottobre, 2 mesi scarsi. E poi molte cose non sono coperte dalla garanzia, tipo la batteria e tante altre cose. Poi secondo me trovano la scusa sempre dello sbalzo di tensione quando non vogliono coprire qualcosa. Capito? Vabbè. Il consumismo è così già. Ma in ogni caso la batteria non costa tanto, costa sui 12 euro, roba del genere, non costa moltissimo. Ma sai cos'è? Cioè, a parte che il cellulare, a meno che non lo resetti, io l'ho dovuto resettare prima di mandarlo su. Qua Sassari non è qua, no? Assolutamente. Marca lì no, c'era qualcuno, ma hanno detto per carità di Dio lo spedisca su all'azienda a Milano, non so dove, ma qua non lo faccia toccare. Sì, la manodopera che costa, la manodopera, si è tutti sigillati, non c'ha il coperchietto apribile come quelli vecchi, è una rottura di palle già. E anche i portatili sono così, portatili, i PC, portatili. Una lapide, non vedi nulla, non vedi uno sportellino, anche la batteria, devi aprire tutto il computer. E quindi è un lavoro estremamente delicato da fare. Poi ho detto, appunto, anche se lo dai a qualcuno da aggiustare, cioè devi togliere comunque le password, per quei dati sensibili che devi, li devi resettare sempre già. Sì, probabilmente è uscita un po' così di fabbrica, capita. E purtroppo credo che la batteria non sia di quelle cose che coperte in garanzia, quindi devi farlo fare da altre persone, cioè o dalla cosa a pagamento o da altre persone, capito? Uia, le 6 sono, fra poco e vorrei mangiare, anzi subito. Per me. E quindi che te devo dire? Mia socia diceva così, che con la mia era gonfia, me l'ha fatta vedere, quella avevo cambiata, si è gonfiata, no? Tutto comunque sta quasi per esplodere. Gianni? Sì, avanti. Ehi, ciao, ciao Gianni. Ciao anche a Marco. Oh già, passati il permesso per andare a pescare a mare, in capitaneria devi andare. Sì, oppure anche su internet lo puoi fare. Devi cercare, aspetta, com'era? Agricole, non viene il nome. Vabbè, comunque, se vai in capitaneria devi andare presto, perché mi pare che alle 11 ci danno le sconti, niente lo fare. Sì, volevo sapere quello. Sì, su internet ci sono, però sono in classe, ma non riesco a caricarli. Non riesco a farlo là, non riesco. Vado, poi me lo faccio spiegare. Sì, avanti il pomeriggio, sì, fra. Io l'ho fatta da poco, mi era scaduto, l'ho fatta da poco. Ce l'avevo anch'io, mi è caduto, però ce l'ho caduta, ce l'ho caduta già un anno, niente. Va bene, dai, ti ringrazio, volevo solo qualche informazione. Riprendi Marco, ciao. Io sapevo, pensa, io ce l'avevo dal 2000, dalle prime volte che l'hanno chiesta, e praticamente ogni anno la rinnovavano automaticamente, lo sai. Hanno fatto questi decreti di rinnovo ogni anno e credo che tuttora sia così. Comunque il sito è il Ministero delle Politiche Agricole, aspetta com'era? Ministero Politiche Agricole e Forestali forse. E quindi io praticamente non ne ho più rinnovato, perché c'era questo rinnovo automatico per chi l'aveva già fatta in origine, no, quando l'hanno proposto. Addirittura ho trovato il PDF originale di quando l'avevo chiesto, me lo sono ristampato, anche se io francamente a pescare non sto più andando, mi sono scocciato. Comunque volendo me lo sono stampato eccetera, anche plastificato mi pare, ma non credo che ne chieda nemmeno nessuno mi offra. Ok, ho sentito Nicola vieni avanti. Infatti queste cose, una volta si è avvicinata la capitaneria con il gommone. vede che hanno tempo da perdere. Te lo chiedo, te lo chiedo. Se ci vuole te lo chiedo, no? Si è avvicinato, ci avevano il gommone, non ci avevano il mezzo grosso, il gommone ci avevano. Ehi, contenti loro. Sì, poi io ero rimasto a questa cosa qui, a questi rinnovi continui, usciva questo decreto e la rinnovava ogni anno, mico. E poi queste leggi, queste cose sono fatte per farti cadere in fallo, mi. Vabbè. Nicola, sei tu? Oh, Marco. No, non ho cambiato nulla, probabilmente era anche perché sei usato tu e l'hai messa forse in diversa posizione. Qua è tutto regolare. Franco, come mi ascolti? Benissimo, sempre lo stesso. Nico, qua si chiude, lascia male l'antenna, ma l'antenna è un attimino piccolo con le portate. Santiago 7, Radio 2. Però prima arriva fino a Open. Cosa hai fatto? No, Open 95 arrivava. Ehi, forse è andato anche Franco, è andato a dare un'occhiata a internet. Nico, qua sei 9 più 20, ma non fa testo, dai. Sì, Gianni qua è tutto regolare, segnale solito. Ok. Io quasi staccherei momentaneamente, dai. Mi mangio qualcosa e poi devo finire anche roba al computer. Devo configurare roba, dai. Ehi, allora, vai, siamo qua. Avanti Nicola. Parlato in due. Vai Nicola. Ciao Marco, avanti Fra. No, non è perché sono tanto a dirti quello, perché sto facendo cosa, sto facendo. Già ci sentiamo. Ti ringrazio già dell'informazione. E saluto tutti, dai, ci sentiamo. Saluto anche a Nicola, che se non so cosa dire, non so se lui mi ascolta. Ciao, riprendi Gianni e fai girare. Ehi, allora, ma per pescare sei andato? No, ancora no, mi sto preparando tutto, tanto per non stare a casa, era qui. Sono io. Fai bene, dai. Anche io ci devo andare, ma non mi decido mai andare perché non solo non è che mi piace assai. Sì che c'è compagnia, magari di notte, io vado di solito la sera, di brunire e poi mi faccio un po' di notturno, capito? Certo. Non se ne ho fatto abbastanza, sei abbatto. No, adesso noi andiamo, è andato in pensione un amico mio, è andato da poco a giugno e ci stiamo preparando tutto e andiamo di nuovo a pescare insieme, come andavamo tanti anni fa. Già va bene, lui fate compagnia, passate un po' di tempo. Avanti un pomeriggio, avanti. Da Sos. Sì. Ehi, eccoci, sono io oggi, ho cominciato dalle 6 di mattina al sabato, sono andato al policlinico a fare le razze, sono stato 3 ore, mi sto aspettando perché hanno aperto oggi la radiologia nuova e sono stato il primo a fare le radiografie. Dice lei al record, sono stato il primo a fare la radiografia. Asco, provate a chiamare al CUP. Al CUP! Ripetaci prima di pagare. Io una volta ho guardato, poi ci sono i cardiologi privati che sono, che praticamente lo fanno anche per la cassa multa e quindi puoi andare, puoi provare questi privati, controlli, metti su internet, su Google, metti medici cardiologi convenzionati e ti dà tutti i cardiologi convenzionati che ci sono. Ce n'è anche uno dove andavo io, aspetta che vi è, c'è il dottor Bandiera, che mi amara sul fondo. No, fa tutto, avanti Giacomino Robertino. No, io ti chiamo sempre Giacomino. Buonasera a tutti comunque. Ciao, buonasera. E allora, ripresa la scuola? Positivo, sì, ripresa, ma è stato scioccante. E più di che? Mi svegliavo tardi, non facevo nulla la mattina e la sera, adesso mi devo svegliare alle 7 e finisco all'1. Figlio mio, tutti l'hanno fatto, tutti quanti. Se vuoi farti un po' di strada, devi studiare. spacca sulle spalle, ciao. Nicola ti ha salutato più da Ruggerito. Ma dimmi la verità, vi siete sentiti con Riccardino prima? Vi siete messi d'accordo a entrare oppure è capitato così? Sei lupo grigio, lo sai, è modulato con un apparato portatile e un antennino, adesso ho incontrato una mini turbo e sta uscendo meglio di prima, senza ombra di dubbio, però oggi a me c'è la posizione sbagliata l'antenna, perché prima mi arrivavano 2,5 e adesso mi arriva 7, non capisco il perché. O è la potenza dell'apparato che è toccato, prova a cambiare posizione dell'antenna, sicuramente per un pelino che tu non avevi come devi arrivare. Prova a vedere se quello lì, ma non penso, non penso, perché l'uno vale l'altro, anche io li attacco indifferentemente da una parte o dall'altra. Io che da Ruggito mi sono messo parecchio portatile in macchina, è la Turbo 2001 e va alla grande a pagare, e io un po' di paura ce l'ho anche, un po' di paura, più che altro ho paura di bucare la cappotta perché la macchina è nuova, infatti ho messo la base magnetica, ma va alla grande lo stesso, c'è 1,1 di stazionari, 1,2 al massimo in tutti i canali, ma dall'A alla M, immaginati, perché questo portatile è uno dei portatili migliori che ci sia, c'ha tante bande, c'ha dall'A alla M, immaginati. Cosa ti stavo dicendo? Ma l'antenna qui è risolto con le stazionarie, con tutto qua. E a positivo, qua. Questa cosa del rosmetro, mi avevi detto era perché avevi dato potenza? Perché tu quando dai più di 100 watt devi andare alla scala 1000 in modo che non ti rovini nulla, capito? Ci sono le scale 10, 100, 1000 eccetera, perlomeno da me è così, non so se tu ce la vedi questa scala qua. Ehi, a dirmi un po' grigio, sempre 7, sì, sempre uguale. Ma l'antenna l'hai messa proprio nel punto dove la mettevi prima, te lo devi segnare in modo che non ti muovi più da lì. Prova a metterla di lato da una parte e dall'altra per vedere se aumenta, se diminuisce, dai. Proviamo così, vediamo un po' se è quello. Magari spostando la ricevibile trasmettimento. 4. Prova dall'altra parte. No, non era meglio come la prima, dai, 4,5 adesso, ma non ci arrivi a 7. Adesso sei 7. Ho capito. Avanti, lupo, va, caccia, io da Ruggerito, mi caccia a vita Ruggerito, stavo chiamando. Io da Ruggerito, ci sì. Ma cosa è successo tuttavia che tu Ruggerito? Chiamala a vedere. O ne è mancata la luce, è mancato di colpo. Bruciato il rosmetro. E adesso sei ancora più basso, cazzo, 5, 6, sì. 5, 5. Ah, buh. Io te l'ho detto, ce l'ho l'alimentatore, però gli manca il computer, ce l'ho qui, ce l'ho. Non mi ha risposto. Prova. Adesso si è aumentato, 7. Oh, è un casino, quando ce l'antenna è così mobile, è un casino. Avanti, mi cade. Ehi, ehi, prima però un po' grigio che oggi non lo sento, adesso non è riuscita ad andare in piazza Segni, perché quando va in piazza Segni arriva davvero forte. Perché lì è chiuso dai palazzi, capito? È chiuso dai palazzi. Ho capito, non ce l'ho ben presente, però se mi immagino, forse ho capito un po' la zona, già ce ne sono palazzi. Boh, non lo so, non lo so. Perché di solito anche quando parlavo a casa prima lo sentivo bene, invece bene, almeno lo sentivo adesso, oggi non lo sento proprio. Prima andava atterrato, capito? Sì, ho capito. Adesso da quando gli ha beccato la testa del palchetto non ci fa più. Cappagallo. Tani. Oh. Luca c'è. No, negativo, almeno che sia l'ascolto. Luca, ma come non l'hai sentito? No, per me. Sto chiamando al 20, 9, PMR, 9. E siamo al 23, prova al 23. No, ci siamo spostati al 20 già, così abbiamo lasciato libero il 23, capito? Poi ti dico, stavamo occupando troppo, ci siamo spostati al 20. Vai. Già mi hai capito. Vabbè, saluto a tutti, mango in ascolto. Ehi, ehi. Bravo Dioschi. No, lei chiama Ruggerito, ti sei ripreso? Ciao Marco, saluto, ciao a tutti, non ascolto. Ehi, sto mangiando già, saluta Chiodo, tutti quelli entrati e a dopo, ciao ciao. Ehi, ciao Chiodo, ben sentito, non mi ricordo il nome di battesimo, qui arrivi bene, 9, anche 9 più modulato, sto usando il solito apparecchietto. Lo Smitter prendilo per buono, dai, 995 modulato diciamo, dai, riprendi. Sì, me l'ho immaginato che era quello, perché di colpo non hai risposto. E vabbè, c'è anche lupo grigio, dai, avanti, lupo di prova, sempre lo stesso segnale, sempre 7. È entrato Claudio, l'ha salutato e ha detto che rimane in ascolto. Ciao, ciao. Avanti, avanti, anch'io come Claudio ho un filo volante che è pericoloso, che se si stacca ho paura. Io bisogna avere il filo volante, bisogna mettermi tutti per assemblare, se no lui è inciampi, fa i strappi, trovi scappa, e questo ci qui c'è la rotta di scarpe, anche il mio collega ogni volta deve fare da un vale, fare lui. Sono di là, ogni volta è tutto per fare i sciuti che lo fanno. E adesso qualche apparato stai uscendo. Valvolare quello. Sta pagato. E quello lì mi pare che tuo padre quando era giovane lo usava in macchina, quello che stai usando tu, se non ero. Positivo, questo volevo dire, ma è uscito di testa, vai avanti che ho la memoria corta. Se cominci da adesso, A 70 anni non ci arrivo già. Perché non ci fili volanti, lasciamo sempre il tempo dentro qua. È così, perché battaglia in ciampi o metti male un piede in coso, tacci. E Roberto penso che sia lavora ancora alle 7 quando entra. Qui che ti sta cercando Claudio, ciao. Dovrebbe essere all'ascolto. Ciao Luca. Sì, è entrato Luca Manicomi, avanti Luca, riprendi. Chi c'è? È stato forte a ricarico, chi c'è altro? C'è Chiodo Ruggerito da Mulos. Ma qua non arriva, salutamelo. Ti saluta Luca, da lui dice che non arrivi. E sarà a casa della ragazza, forse Luca, dove c'è da Manicomi? Sì, già. Da capisco, c'è un antennino, è a casa della ragazza, lo chiedo a Ruggerito, per quello non lo so. Ehi, ti saluta, chiedo a Ruggerito. Ricambia già, Luca ricambia, avanti, avanti il pubblico. Luca lo copia il pubblico. E probabilmente sta mangiando, sta facendo qualcosa, non può rispondere, dai. Perché l'ho sentito con la bocca piena, se non erro. No, io no. Io sono SWL e